voglio fare l'amore finché non ci bussa il vicino, finché non parlano di noi in assemblea di condominio. Ma ora che sto, ora che sto, ora che sto come la pasta da buttare, dai mi farò, mi farò, mi farò Tinder per socializzare. Adesso guardami e dimmi che nascondi nei tuoi occhi azzurro Napoli. Ma tu come stai? Dici bene dai, però menti e sai, si vede che questa città è troppo piccola per due cuori messi assieme. Andiamo via. Non è mai stato abbastanza, sentiva moglie a ben stanza con il vicino che ci gridava bassa. Oh, tu che poi davi la caccia alle mie farfalle in pancia, le catturate messe dentro un barattolo. Ma ora che sto, ora che sto, ora che sto come la pasta da buttare, lei mi farò, mi farò, mi farò Vinted per arrotondare. Penso che l'unica macchina del tempo che funziona sia la musica. Ma tu come stai? Dici bene dai, però menti e sai, si vede che questa città è troppo piccola per due cuori messi assieme. Andiamo via. Mi chiedo se il cielo è solamente un murales e tutte queste nuvole sono le parti da pitturare. Mi chiedo se il cielo è solamente un murales e tutte queste nuvole sono le parti da pitturare. Ancora un po' di bianco, un po' di viola. Ma tu come stai? Dici bene dai, però menti e sai, si vede. Andiamo via.